Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ben trovati a Ferry Boat, sono Enzo Argante, il traghettatore. Questa è la puntata di Ferry Boat che riguarda la settimana che sta per cominciare, quando giovedì, fra l'altro, vi ricordo che è curata dai centri territoriali di supporto romani in collaborazione con il Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi, ci sarà un incontro nell'Aula Magna di Leonardo da Vinci sulla scuola, sull'uso delle tecnologie, sulla famosa classe 2.0, un argomento da seguire attentamente. Come attentamente seguiremo anche l'evoluzione della settimana Porta la Sporta, che dal 23 aprile promuoverà l'utilizzo della borsa in sostituzione dei sacchetti monouso, quelli usa e getta. La settimana che inizierà fra qualche giorno hanno aderito anche il coordinamento delle agende 21, Rifiuti 21 Network e Lega Ambiente, promossa dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, da WWF Italia, da Italia Nostra e dal Turiculè. Genius Loci, archivio della generatività delle imprese, un nome difficile anche solo da pronunziare, ma in realtà molto semplice da capire, e lo farà John Dotti, che è membro del comitato scientifico dell'associazione. Genius Loci, innanzitutto l'idea del lavorare intorno alla generatività italiana, non soltanto quella delle imprese, ma anche quella delle istituzioni o dei gruppi auto-organizzati e del cosiddetto terzo settore. È un'idea che prende vita 2 anni fa e oggi è diventato anche un portale con un archivio di tutta una serie di casi e situazioni che abbiamo incontrato per l'Italia. È l'idea di riprovare a ripartire dalle storie delle persone, dalle loro esperienze, cercando di individuare in queste esperienze l'aspetto appunto generativo, che non è solo innovativo dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista culturale, ma è in grado di generare nuovi tipi di realtà, nuovi tipi di relazioni, nuovi tipi anche di produzione del valore, se penso all'economia e di distribuzione del valore. Ci troviamo casi di imprese che accanto alla produzione hanno anche servizi alle persone molto intelligenti, casi di scuole che hanno attivato con i loro allievi non solo percorsi di istruzione intelligenti ma anche accompagnamento al mondo del lavoro, esperienze del nord, del sud e del centro, insomma un'Italia molto più ricca di quella che viene generalmente rappresentata sui media. Ecco, aggiungiamo John Dotti, che generatività può essere letta anche in questo senso: in un sistema economico sempre più competitivo con l'ingresso delle grandi potenze orientali latinoamericane, la generatività italiana può voler dire la chiave per competere ancora su questi mercati sempre più globali e sempre più incomprensibili e sconfinati, così? No, bravissimo, cioè l'ipotesi che facciamo noi è che l'Italia per mantenere un posto nel mondo lo deve mantenere rispetto ai suoi dati identitari, che sono sempre dati identitari che hanno sempre tenuto insieme il particolare e l'universale, cioè la grandezza italiana è di avere una distribuzione sul territorio di tantissime città, ma sono tutte città e culture, storie, letterature, ma anche imprese che hanno saputo confrontarsi sempre col tema dell'universale. Noi crediamo che questo fenomeno sia continuato in Italia, sia stato in questi ultimi 25 anni molto nel sommerso, perché hanno preso piede molti altri fenomeni dal punto di vista del successo quantomeno mediatico, ma l'Italia che continua ad andare avanti è quell'Italia lì e andrebbe un po' accompagnata. L'idea dell'archivio è di cominciare a dire che è un'Italia che esiste e che ha voglia di continuare ad esistere appunto, e che ha anche qualcosa da dire ai cinesi, agli indiani, ai brasiliani, ma ce l'ha da dire da quel punto di vista proprio appunto del tenere insieme aspetti economici, aspetti sociali, aspetti informali, aspetti formali. Bene. Queste vicende. Grazie, complimenti, buon lavoro. Questo è tutto per Ferry Boat. Vi ricordo che potete scrivere e segnalare le vostre iniziative a ferryboat@radio24.it. In appuntamenti sabato alle 6.50 e alle 13.55, domenica alle 6.50 e alle 14 per l'azione dell'edizione settimanale. Grazie ad Anita Panizza e a Valeria Bernardi in regia.